solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti, regia del Bolognese Volante. Allora, ci siamo puntuali, ore 15.02 minuti prime. Ovviamente le frequenze sono quelle giuste dei 103 e 100 in modulazione di frequenza. Chi vi parla è Franco Paoletti, al di là del vetro, ovviamente, il nostro sempre verde, evergreen, Bolognese Volante. Sono diventato un ramarro? Ma diciamo così, la vedo abbronzatissima, quindi va benissimo. Playlist di oggi molto interessante, anzi rimanete con noi perché ci sono degli evergreen di cui parleremo. Proprio la prima è quella che andremo ad ascoltare, proprio il primo brano, giustamente. Ben arrivati in questa domenica 25 giugno 2023, oggi veramente caldo, è un'estate insomma da abbronzatissima, appunto. Allora, ben arrivato, tutto bene? Regista? No, lei non mi guarda. Come? Dopo tanti anni la conosco, penso che bene. Se facciamo una media delle puntate, dunque sono circa 50 ad anno. Sì. Sarà già più di una decina d'anni. Sì. Quindi almeno 500 puntate. Sì, certo, sicuramente. Quindi minimo, più minimo, quelle che ha fatto lei senza extra, di me prima. Certo, poi ci sono gli extra. Penso che lei insomma, sia intervista. Circa 1000 puntate di Easy Pop. Beh, insomma, diciamo che è un po' di tempo che mi pregio. Una delle trasmissioni di più longeve qui. Ormai di Radio Città Fujiko. Sì, beh, non lo so, però insomma. Se la gioca Paoletti. Me la gioco. Bene. Allora, dopo questi sproloqui, ben arrivati. Buon pomeriggio, ecco. Ben arrivati nel nostro pomeriggio musicale. Ovviamente fa caldo, ma ci pensiamo noi a rinfrescarvi. Questo è ancora niente, quello che verrà. Va bene, lei è sempre ottimista, vedo che lei si è stato attrezzato con ventilatori, quant'altro, bene, ha fatto bene, la vedo anche abbronzato, lo sa? Beh, solo abbronzo, non sapeva Paoletti che stava certo, solo ci si abbronza. Mentre c'è chi lavora, lei si è abbronzato, benissimo, allora cade a fagiolo il tutto perché vado a presentare il brano d'apertura che si intitola proprio Abbronzatissima. È quella? È quella. Ascoltiamo. Sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima, a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Respirare con me. Guarda come flexano, lì che ballano e ci provano, ma si avvicina e mi dice che vuole fare la modella su OnlyFans. Sai che ci resto male, è che sei un po' banale e non mi posso aspettare più niente da te. E non capisco poi se ti dispiace trattarmi male e farmi bere fino a vomitare e poi girare sempre con la mia coupé ed ogni notte da papà. Abbronzatissima, sotto i raggi del sole, com'è bello sognare, abbracciato con te. Abbronzatissima, a due passi dal mare. eccolo qua, lui è di Latina, Fabio Casillo, è praticamente un attore e anche un mago, perché si diletta anche in giochi di prestigio. Insieme a Iride, insieme hanno cantato questa Abbronzatissima. Pensate un po' che la versione originale del 1963 ed è considerato da sempre il primo tormentone estivo nella storia della musica italiana, scritto da Edoardo Viannello insieme a Carlo Rossi, e gli arrangiamenti del maestro Morricone ha dato appunto il via a questa stagione di ricover, perché sono tante, tantissime quest'estate le cover di brani che abbiamo conosciuto e che vengono ripercorsi dagli evergreen, che poi entrano nell'immaginario collettivo delle nuove generazioni. Quest'oggi ne avremo altre due da ascoltare, quindi rimanete sempre sintonizzati. E noi li ascolteremo. Sì, sì, ho la lista qui e devo dire sparse un po' qui, un po' là. Vogliamo proprio ascoltarle perché sono delle chicche, così riverniciate, devo dire che fanno anche piacere essere ritrovate qui all'interno della musica italiana. A proposito di musica italiana, dopo Fabio Casillo che abbiamo ascoltato con questo pezzo, andiamo ancora con una giovane cantante, si chiama Anna Cappasso e ci presenta Io e la Luna. Ascoltiamola. Io non ci speravo, io non ci credevo che a fine serata restassimo io e te e mano nella mano andiamo più lontano, dove gli occhi non cadono su di noi. Abbracciami forte poi, fammi sentire che tu mi vuoi. Due stelle che stanno cadendo, esprimo il mio desiderio e poi mi lascio andare negli occhi tuoi. Dicono che ora tu mi vuoi. E allora besame, besame, senza di me, abbracciami più forte poi, proprio quando vuoi, parlami di noi, e ancora pesame, pesame, e dimmi che oramai non c'è più nessuno che ti ama quanto amo te, sono sola qui davanti a te, io e la luna. Cercavo un amore che non passa, quella cosa che ti resta sempre in testa. Non ho mai cambiato il mio punto di vista, ma è una svista. Poi ho visto te, che mano nella mano mi porti più lontano e più vicina nel credere su di noi. Abbracciami forte poi, fammi sentire che tu mi vuoi. Due stelle che stanno cadendo, esprimo il mio desiderio e poi mi lascio andare negli occhi tuoi. Dicono che ora tu mi vuoi. E allora besame, besame, e dimmi che senza di me hai fortuna. Abbracciami più forte poi, proprio quando vuoi, parlami di noi. E ancora besame, besame, e dimmi che oramai non c'è più nessuno che ti ama quanto amo te. Anna Cappasso, Io e la Luna. Direi che questo Occhi e Croce è un reggaeton giù di lì, però sì, certo, certo, più di me, bravo, molto estivo, e infatti si legava bene con il precedente di Fabio Casillo e di Iride con Abbronzatissima. Qui siamo già proiettati verso la spiaggia. Anna Cappasso, insomma, beh, siamo a fine giugno. Eh beh, sì, effettivamente solo io e lei siamo qui a lavorare. Proiettato l'albero di Natale? No, vabbè, dicevo, solo io e lei siamo qua. Mese. Esatto, che grondiamo di sudore, però insomma siamo qui per una nobile causa, giustamente, far conoscere la musica indie. E allora inizia giovanissima Anna Cappasso ad affacciarsi al mondo dello spettacolo e le sue prime esperienze in campo musicale, e soprattutto dato dal teatro di Napoli, visto che lei hai iniziato come attrice e poi si è cimentata in piccole così parti in cui cantava, e poi da lì il teatro l'ha assorbita e ha deciso appunto di cantare anche, perché ha detto, si è detta, ho una bella voce, perché no? E piano piano insomma ha iniziato a scrivere dei brani radiofonici ballabili, e questo è il suo nuovo singolo. Complimenti a lei, devo dire molto estivo, con questo reggaeton ci sta benissimo. Direi invece di presentare la prossima regia e chiedo a lei aiuto. Capisco molto bene, perché abbiamo i Fight for Four con Kierkegaard. Ascoltiamoli. Piatto numero 2. Tell me about the Kierkegaard and is our success. You gotta love the light so much to have a knife in the chest. You wrote about the centrality of the person, the pain. And you tell me much you're drunk and who you fuck the other day. I'm so tired by your shit about fire and your fault. If you apologize, got sick of it, even more. Women call me every night to tell me he's good man. If we drink it just because it is already red in my drink. I got no feel for you and you know I shame. I got a feel for you and you know I shame. I got a feel for you and you know I shame. Kierkegaard is our success. You got the love of life so much to a knife in the chest. I got a feel for you and you know I'm ashamed. I got a feel for you and you know I'm ashamed. I got a feel for you and you know I'm ashamed. Fight for Four, Kierkegaard. Beh, c'è un cambio di passo fra la musica di prima e quella di adesso, come ce ne sarà uno dopo di questo brano, Paoletti? Assolutamente, degli stacchi davvero notevoli, ma diciamo che questo pezzo serviva per così per presentare appunto i due ragazzi. Sono Fight for Four, appunto è un duo che viene direttamente da Verona. Nascono nell'aprile 2022 e poi non nasce solo un, diciamo, un duo, ma un incontro di diverse sonorità supportati da una forte base elettronica e poi questi sound molto ricercato alla Simple Minds degli anni 80, molto così, molto cupo, molto così inquietante, e devo dire che hanno fatto centro, perché ci sono piaciuti subito e abbiamo deciso di così di presentarveli a voi che ci state ascoltando, poi giudicherete voi. Molto interessanti questo duo, che e poi è formato da Alice che sta alla voce all'elettronica e Alessandro invece che sta al basso e alla voce elettronica. Quindi se sono rose fioriranno anche per loro, complimenti davvero. E a questo punto cambiamo pagina con il nuovo pezzo di Bruno Ferrò e ci presenta Odore. Ecco, qui andiamo sul cantautoriale. Esatto, quindi attenzione al testo. Tutto tunetar quel. Esatto, uno stacco notevole. Ho visto finalmente lo squallore spaventoso della nostra condizione, nel bagliore soffocato tanto odore, così tanto affezionato odore. Un meschino fascinoso andava in cerca di mollezza, quanto somigliava a me, vicino all'immondizia una visione. E scelse di parlare alla sua disperazione. Nonostante l'imponenza della tua capigliatura, sembri proprio molto sola. I Io da solo non sono, ma da solo vivo, e potrei prendermi cura di te per una notte, si intende, poi basta per una notte e poi si vedrà. Quanta sofferenza in una mano tesa, in quella che chiede, in quella che prende, nel guardarsi le spalle in due, fino in fondo alla strada. Danza antica e cenciosa come il mondo, che lui non conosceva, ma che lei gli mostrava sul suo corpo, così tanto martoriato corpo. Bruno Ferrò, Odore. Beh, questo brano mi ricorda intanto gli anni 70 con questo assolo di chitarra, e poi un po' quel signore che cantava, Angelo Branduardi? Angelo Branduardi, ma certo, queste ballate medievali, romanze. Beh, in effetti poi è così all'interno di questo brano molto particolare. Diciamo che lui inizia con la musica nel 2008, quando poi appunto fa le prime esperienze punk rock in cover band, poi fonda i Two Legs Bed. Lascia il gruppo e nel 2016 riesce insomma a interessare addirittura Piero Pelù, che sceglie un suo pezzo per una compilation, e poi da lì in poi insomma diciamo che ha scritto anche per altri personaggi, però l'anima di Bruno Ferrò è tra appunto il rock puro, quello insomma quello bello tosto, stile Litfiba, oppure il cantautore. Questa volta ha scelto appunto il cantautorato, e questa ballata è veramente insomma ricorda gli anni 70, quelli dell'impegno, dove appunto si cantavano storie anche importanti. E vabbè, un bel azzardo, perché oggigiorno insomma queste ballate, queste suonate, diciamo, sono difficili, no? Prestare l'attenzione su una ballata così è una bella scommessa, però è un bel brano. Noi l'abbiamo fatto perché insomma ci è piaciuto molto anche il timbro della voce, devo dire, un personaggio, anche andate a cercare il look, è particolare. Bene, detto ciò, regia, cambiamo nastro, registro, come si suol dire, nastro, registro, no? Il registro. Allora passiamo al piatto 2, un altro brano in inglese, quindi tocca a me annunciarlo, immagino, eh? Eh sì, mi aiuti lei, perché sa. I Motes con Tear Down This Wall. Li ascoltiamo immediatamente. From Belfast to Palestine, Yemen, Korea, Kuwait, from Cyprus to Mexico. To you. Notes, Tear Down This Wall. Adesso Paoletti ci parlerà di dove provengono. Eh certo, secondo lei la MO sta per... Ah, non ne ho idea. La targa Modena? Modena, esattamente. Ah. La TS sta per Trieste, esattamente così. Casa sua. Esatto, i Moz nascono nella primavera del 19 dell'incontro di Nicolas Bellin, arte già insomma avviato nella musica, si chiama Nickel, e Andrea Quadrelli in arte Osea. In occasione del festival per autori avvenuto a Rimini si conoscono e decidono di fare le cose insieme. E quindi che cosa succede? Che stanno registrando a un album attualmente e sono consapevoli ovviamente di provenire da esperienze musicali diverse, però ciò che li accomuna è appunto l'elettropop, che appunto riesce a unire il modo di fare musica di questi due personaggi. Se ne aggiunge un terzo che è un discografico nonché insomma un curatore del suono, che sta appunto curando il tutto per quanto riguarda i Moz. Devo dire che il risultato è davvero così entusiasmante. È quindi un bel brano, un bel brano, si lascia ascoltare, sì. Che dire, tanta fortuna a loro e ai Moz con Tears Down This Wall, il titolo del pezzo. E come dico io sempre, se sono rose fioriranno, in bocca al lupo. Noi vi suoneremo appunto come suoniamo tanti insomma che ci stanno nel cuore. Che dire, che siamo pronti per un gradito ritorno alla musica per un gruppo che già ben conosciamo. Si chiamano, regia, Comete, e ci presentano Peccato. Comete con noi, ascoltiamoli. Lo sai che l'80% di quello che accade dentro il nostro cervello non è così importante. E allora perché ti penso quando mi sveglio? È una notte di maggio, di quelle che si sta bene anche con una felpa, di quelle che non do troppa importanza. Però se oggi fa male, forse qualcosa manca. C'è davvero un bel giorno, è uscito pure il sole. Di quelle giornate che voglio soltanto cantare. E se ti penso lo so che poi ti voglio sentire. E se ti voglio sentire, poi ti voglio abbracciare, poi ti voglio mangiare. Sì, come la cena di Natale. E non c'è niente come noi, e infatti proprio non esistiamo. E tranne qualche sera poi, che non è strano prendersi per mano. Portami dove vuoi tu, che siamo bravi a fare il giro a caso. Fare di tutto e non vedersi più. Peccato. Ok. Lo sai che parlare non serve, che parlare troppo per capirsi più a fondo non è mai entusiasmante. Che se mi devo spiegare non c'è capito niente, come è capito tutto dal primo momento. Qualche volta ti penso e se stasera ti sento, e se ti vedo ti abbraccio, e se ti abbraccio ti mangio, poi mi so che ti spoglio. E non c'è niente come noi, infatti proprio non esistiamo. E tranne qualche sera poi, che non è strano prendersi per mano. Tu portami dove vuoi tu, che siamo bravi a fare il fine a caso. Fare di tutto e non vedersi più. E non c'è niente come noi, tipo la pizza con sopra un gelato. Che non so come mai, ma alla fine ci sta proprio bene. Tu portami dove vuoi tu, che siamo bravi a fare il fine a caso. Fare di tutto e non vedersi più. Lo sai che l'80% di quello che accade dentro il nostro cervello. Eccolo qui, Comete, Peccato il pezzo. Che dire di Comete? Che perché praticamente Peccato il pezzo. Peccato si intitola così. Ma perché peccato? Ma no, diciamo si che si intitola così. Si intitola proprio così, è il nuovo singolo di Eugenio Campagna, ovvero sia lo conosciamo come Comete. Nato a Roma nel 91, è un appassionato di musica fin da ragazzo, tant'è vero che poi scriveva già per conto suo, ma è l'esperienza di X Factor 13 che gli dà diciamo quella la giusta visibilità con il pezzo Cornflakes, che ha spopolato al primo colpo, tant'è vero che è certificato disco d'oro. Uscito appunto durante la partecipazione di X Factor, cosa succede? Che lo notano appunto i discografici e gli dicono: beh, tu hai del talento, ti produciamo. E quindi devo dire che dopo Cornflakes lui ha fatto uscire dei singoli davvero entusiasmanti. non ne ha sbagliato uno. Comete una realtà musicale, insomma, della nostra nuova generazione, che noi appunto continuiamo a seguire con molto entusiasmo. Che dire, che anche questa volta ha fatto centro, bravissimo. A questo punto abbiamo ancora qualcosa di così inglese, brano, vero? Della prima parte. E quindi cosa arriva, regia? Altro brano da pronunciare, Estrels con Ticking Time Bomb, piatto numero 2. It's a ticking time bomb. No, I'm blowing up in my face, just like every other shade of love, the better the distaste. I know, I already know, I can feel it from the fire, it's like a burn, newborn flame, begins to grow, it's a ticking time bomb in the snow. And I can run from the explosion, I can save myself, but maybe you can hear me, maybe you can. So run, run, run, run from the mind. Run, run, faster than the wind. 'Cause I'm a train wreck, I'm a plane crash, I'm a hurricane, it's bound to burn and sink to the ground till it's all ash. And I'll break my bones and crush my soul to be yours. So run away, just run away, my love. 'Cause I'm a ticking time. Songs, and that's a lot. I'm a train wreck, I'm a plane crash, I'm a hurricane, it's bound to burn and sink to the ground till it's all ash. And I'll break my bones and crush my soul to be yours. So run away, just run away, my love. So I'm taking time. Estrels, Taking Time Bomb. Beh, fa molto Eurovision Contest Song questa canzone. Eh sì, lei si chiama Stella Maria Fedeli, in arte, stavo dicendo, Estrels, cantautrice romana, ha 21 anni, quindi giovanissima. Ha vissuto però a Rio de Janeiro i primi anni di vita e poi si è trasferita appunto nella tenera età in Italia, però vive insomma tra un po' diciamo tra Roma e Rio de Janeiro, avanti e indietro, perché quelle sono comunque le sue origini, e si è data alla musica perché si è scoperto appunto di amare molto l'indie folk e poi non solo, insomma tutta diciamo il folklore anche di Rio de Janeiro, e insomma lei è una grande ottimista. E al termine del 2021 ha iniziato a esibirsi nei locali appunto che contano, nei locali romani e non, e nel 2022 ha pubblicato il suo primo singolo che è andato molto bene. Questo è il terzo singolo per lei, si stacca un po' dall'atmosfera triste e malinconica, insomma, delle ballate un po', no, di Rio de Janeiro, non so come si chiamano, non è il fado, ma sicuramente hanno un nome, giusto? E quindi è molto bella, e c'è anche da dire che qui al terzo singolo ha cambiato un po' il registro, come dicevo, ricorda un po' Tori Amos, un po' Lorena McKennitt, queste atmosfere eteree, no? Un po' alla Kate Bush. Mi piace, una voce interessante da seguire. A questo punto cosa segue, regia? Lei, non ho a lei il microfono è spento, quindi lei può sforzarsi quanto vuole. La pubblicità! La pubblicità, quindi benissimo, rientriamo fra pochissimo. Non andate via, ma anzi, scriveteci via WhatsApp 33 180 94 94. Aspettiamo i vostri messaggi. Re-listening to Radio City Fujiko, Easy Pop.

perché dopo aver ricalibrato il personaggio nel 3 marzo 2023 esce il suo primo singolo Non posso perdere, in collaborazione con Milella, che è un personaggio insomma nel mondo indie, un curatore del suono molto interessante. Noi ci fa ascoltare questo suo nuovo singolo Curioso, perché è curioso, parla di Parigi, si intitola proprio Regia. Parigi da bere, ascoltiamolo. Il rosso per il freddo bestiale, così lontani da casa e non il giorno di Natale a preoccuparci. Ho esagerato un po', ma provaci tu a sorprendere te. Hai le chiavi di casa, puoi entrarci quando vuoi. Così non ti aspetto sveglio, saranno pure affari tuoi. Ho finito anche l'ultima bottiglia, cercando di imparare la tua lingua. Parigi da bere, ho già la Senna nelle. Per poi tornare a litigare. Parigi da bere, torna la Senna in un bicchiere. Troverò un modo per danzare nel letto del fiume e ritornare a farmi male con te. Vino rosso per coprire gli sbagli, firmi una lettera con le labbra pensando sia romantica, ma gli addì fanno male anche senza giri di parole. Potrai scriverci un libro sulle tue storie d'amore. Parigi da bere, ho già la Senna nelle vene, mi dice l'ultimo bicchiere. Chissà se Parigi sta perdendo il suo primato di città romantica, quant'altro. Lei che ne pensa? Secondo me no. No? No. Ma non lo so, qui nel pezzo insomma sembra proprio di sì. Parigi da bere, questo è il singolo di Iado, e a questo punto invece vado a presentarvi un nuovo personaggio, un po', non lo so, il singolo è un po' inquietante perché fa un certo riferimento a Freddy. Il titolo, sì, volevo dire, il brano è carino, fa praticamente un verso a Freddy Krueger, che noi tutti sappiamo, lei sa sicuramente chi è. Freddy Krueger è il personaggio del film dell'orrore, se non sbaglio, quello di Nightmare, credo fosse, sì, bravo, lui, quello con le mani, Nightmare. Esatto, bene. Lui si chiama Giovanni Andrea Vinci, già autore e compositore per il cinema del il teatro, unisce insomma la passione per la scrittura e la musica, e nel 2001 praticamente avvia il suo progetto chiamato Hoddy, che è praticamente riguarda la sua parte artistica inerente alla musica. Sta lavorando al nuovo singolo praticamente, ha lavorato al nuovo singolo, questo è il suo per l'uscita insomma estiva, e che si intitola appunto Pane e Freddy Krueger. Però sta lavorando a un EP che sarà licenziato entro il 2023, quindi suppongo verso prima di Natale. Ci ascoltiamo allora questo valido compositore e anche scrittore di pezzi, si chiama appunto Hoddy, noi ascoltiamo questo suo Pane e Freddy Krueger. Vecchio giardiniere, già via dei 40 anni. Danni non ne ha mica tanti, ma la pancia cade già. Sale col pennello il legno della stazionata. Sul logorio visibile, trasparente patina. Fischietta stanco un triste fa per spiegare il perché. Ci vorrebbero meno assessori e più uomini illustri come Don Raffaele. Ricorda quella fame di successo e di stabilità, ma lo stomaco brontola forte se a tavola c'è solo precarietà. Coglie un filo d'erba, se lo addenta, stringe i denti, guarda il cielo e pensa che se no che suda pane freddi crude, tu chiamali semi. Ricordo pezzi di paure fra i denti, sogna brandelli rotti in dente squeak. E ora che abbiamo fami patologiche, tiriamo avanti a carie acute croniche. E mi risogno 30 anni di meno per tornare a ridere con Pluto, Pippo, Topolino e Paperini. Per poter sorridere fantasticare ancora quello che vorrei e quel che ancora non c'è. Signora, dai capelli lunghi e bianchi, giorni lei ne ha visti tanti, ma la pelle è candida, bocchino in bachelite, sguardo vispo, denti a sciabola, tira sulla stampa il mostro in prima pagina, sogghigna inviperita con estrema sufficienza. Dopo aver ascoltato il brano di Hodie, pane Freddy Krueger, era un po' più chiaro perché ha utilizzato questo paragone, diciamo. Esatto, così. È proprio così. Ci hanno un po' resi competitivi. Esatto. Leggermente competitivi. Sì, certo, infatti la sua rabbia sprigiona, vorrei essere un Freddy Krueger per fare un po' giustizia, un po' giustizialista il tutto. All'inizio sembrava un po' Samuele Bersani e le ballate sue, sì, dei primi. Odie, sì, esattamente, sì. Ci è piaciuto molto e quindi occhio e orecchio all'apparecchio per Hodie, pane e Freddy Krueger. A questo punto invece cambiamo completamente genere, passiamo proprio al rock, quello bello spinto, ricordando che proprio oggi c'è il concerto dei Slipknot a Bologna, al Parco Nord, quindi area Joe Strummer si chiama così, ci sono ancora i biglietti in vendita e insomma ho visto un po' di gente di caos transitando, venendo proprio di qua e quindi appunto ci sono tanti concerti in giro, vi segnaliamo anche questo, visto che noi parliamo di musica bella tosta, un po' metal e non solo, perché parliamo appunto di questo gruppo, no? Che non sa chi sono i Perfect View con Compassion, piatto 2, lo facciamo partire. Esatto, e poi vi racconto qualcosa anche di loro. Non andate via. Time flies, living trying not to waste it. And my time flies. Perfect View Compassion. Eh sì, è proprio così, bello tosto, questo rock. La band nasce all'inizio del 2008 e il sound è vicino alle band, no? Tipo, vicino a quelle band tipo Toto, i Dokken, i TNT, insomma, tutta roba metal che, insomma, piace tantissimo, che viene firmato nel 2010 un contratto con l'etichetta tedesca Avenue of Aliens. E poi da lì in poi è praticamente un grande successo per questo gruppo che ha membri italiani che vanno poi a suonare all'estero, e questa è un'altra di quelle storie, no, dei gruppi italiani che vanno all'estero, non solo, non paghi, anche in Giappone, dove appunto dei loro album vengono poi prodotti con dei pezzi in più, insomma in Giappone si sa che, insomma, amano la musica italiana. Poi ricordiamo che gli ascoltatori e le ascoltatrici, sì, sono all'ascolto di Easy Pop sulle frequenze dei 103.10 di Radio Città Fujiko, Bologna. Esattamente così. Io volevo terminare appunto la storia di questo gruppo che praticamente dopo un brusco cambio di line-up nel 2022 sono ritornati a nuova vita con questo pezzo che mi sembra gran bel pezzo, Compassion è il titolo, per il Perfect View. E a questo punto direi, insomma, annunci lei, non lo no, so. No, facciamo, no, partire. Allora partiamo con un classico della musica italiana, rivisto, corretto, perché silenzio, oggi silenzio. I brani si cantano anche così. Se vai per farti un regalo, sta vita insieme costa troppo. Ti senti un po' nel tarto, non sei come sognavo. Ma con un bacio mi sei sedotto e ancora ci sto sotto. Se in ogni pretesto, in ogni fantasia, un pensiero fisso che non va più via. Nei tuoi occhi mi ci perdo, vedo il mare. Ma quest'amore infame e tu lo vuoi comprare, comprami, io sono in vendita. E non mi credere irraggiungibile, ma un po' d'amore, un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia, mi basta per venire via. Se sei giù perché lui ti ha lasciato, vuoi di più, ma non ti senti in grado, chiama. Partiamo e non torniamo più, ritorna tutto come un déjà vu, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Felicità è una canzone pazza che cantare mi va, una musica che prende e che ballare mi fa, una musica che prende e che ballare mi fa, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Comprami, io sono in vendita e non mi credere irraggiungibile, ma un po' d'amore, un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia, mi basta per venir via. Beh, che dire, questo brano, io ero adolescente, avevo 17 anni, correva l'anno 1979 quando Viola Valentino... Era il 1980! 1980, sì, beh, sì, ho sbagliato di un anno. Vabbè, insomma, erano lì quegli anni, certo. Popolava Viola Valentino, si compravano anche su quelle cassettone grosse che c'erano una volta. Cosa comprava? Le 8, non so, un formato stranissimo. Ah beh, sono durati poco, veramente. Sì, sì. Viola Valentino e Serena De Bari con Comprami, anno 2023, un po' come ha fatto Michael Righeira, che è ritornato con la sua Vamos alla Playa, l'abbiamo visto in quel del primo maggio se non sbaglio, e poi un po' come Bling Bling, la continuazione di Oro, Oro numero 2, quindi Guedo e Pegno, che ha rifatto Oro, ma di Mango, gli Zoi stessi, oppure gli Zois, e poi chi sono, insomma, sono veramente tanti, tantissimi tanti. Oggi abbiamo appunto ascoltato Abbronzatissima fatta da Fabio Casillo, abbiamo fatto ascoltare Viola Valentino che si è così rinnovata insieme a Serena De Bari in questa Comprami molto suggestiva, ma avremo anche qualcosa d'altro. Non fra un po'. Nulla. Non anticipo nulla, vero? E a questo altro punto, da dire sul duo, no? Basta. No, direi che concludiamo qui. Viola Valentino, beh, è l'icona, insomma, della bellissima fotomodella che tutti sognavano negli anni Ottanta. Era l'ex moglie, se non altro, di Riccardo Fogli, giustamente. E poi Serena De Bari è una cantautrice che sta emergendo da un po', insomma, con dei singoli. Questa volta L'Unione fa la forza. Sono ritornate insieme, devo dire, ottima scelta per l'estate 2023, devo dire, questo pezzo io ci scommetto. Passiamo invece a un rapper. Un brano che ha scelto lei. Sì, è un rapper bolognese che sta dando i suoi frutti, si sta mettendo così in luce, e poi è bolognese, quindi non potevamo non suonarlo. Si chiama Partai o Partai. Io direi Partai perché Partai non esiste. Tai come tai tai. Sì, ma non si dice tai. Partai, si dice parti. Parti, esatto. Forse voleva dire così, ma non c'è il trattino, niente. Vabbè. Comunque lui è par, niente trattino, poi T-A-T-Y party. Come tai, però parti. Forse era questo il giochino di parole. Avanti. Ci presenta Que Onda. Que Onda, ho detto giusto? Io non so lo spagnolo. Escucha. Escucha il brano. Perché? Che conta, che conta per me. Baby, che onda, lasci l'impronta. Sei nudo, pronta, sai che c'è. Oggi sei l'unica cosa che conta. Che conta per me. Occhi Red Bull o Kids, nel club sul hit. Sta online, io sul beat. Con la guest fai la VIP. Ho lo swag e mille skill, però voglio stare chill. Sto sul bus e magazine, incasso slot machine. Rimani con me, facciamo le tre, prendi la pillola, facciamo un bebè, resto con te con gli svarioni, sotto jet lag e le pressioni, nerdo con rap con le missioni, per regalarti un missioni. Il tuo corpo oggi è il mio Luna Park, sai che faccio bang bang, boss fight per la città. Baby, che onda, lasci l'impronta, sei nudo, pronta, sai che c'è. Oggi sei l'unica cosa che conta per me. Baby, che onda, lasci l'impronta, sei nudo, pronta, sai che c'è. Oggi sei l'unica cosa che conta per me. Senza plug è la drill, se la crash niente beef. So col drink è la cheese, ma mi mandi in tilt con gli sguardi mille kiss. Leggi Leopardi peso weed, stasera c'è la Champions League, è tu il premio MVP. Se ti impegni sei brava brava, vuoi entrare nella mia squadra. Fusa a casa balla Rihanna, gira una gialla, volume a pallo, gli occhi viola viola. Il tempo scorre e vola, fammi compagnia se anche tu sei sola. Ti tengo buona, resto qua in zona. Parti, che onda? Beh, qui siamo decisamente sul reg di quello linguaggio moderno, ecco. Sì, sì, certo. Allora, Easy Pop si è proiettata nel nuovo mondo musicale. Eh beh, sì, allora mi è piaciuto molto questo slang molto giovanile, caldo, molto giovanile, molto particolare, e devo dire che funziona, perché oggi i ragazzi veramente parlano così. Party, diciamo, è un progetto artistico avviato nel 2022, e questo è un EP che è uscito e ha radici strettamente rap hip hop, ve ne sarete accorti, per poi diciamo anche così sforare, no, in una visione più poliedrica, influenzata da colori di vari generi che spaziano dal reggaeton che abbiamo ascoltato sottofondo, quindi siete nella radio giusta, fino al rock e reggae. E quindi negli anni questo rapper di Bologna ha collaborato con vari brand, no, calandosi anche nella scrittura, ma non pago, e anche si è calato nelle vesti di designer streetwear, quindi è la Que Onda. praticamente è un detto, se non sbaglio, è proprio uno slang latino che vuol dire, vediamo come va, insomma, più o meno. E ci è piaciuto molto questo singolo estivo, in attesa appunto di un album. Intanto c'è questo EP davvero divertente, scanzonato e molto radiofonico. Cambio di passo nuovamente, vengono a trovarci, come dice lei di solito, sì, Paoletti, certo. T-Pam featuring Michael Lane, Back to You. Io trovo molto elegante questo pezzo e molto sofisticato questo brano di T-Pam featuring Michael Lane, Back to You. Cosa dice? E qui la storia è un po' così particolare, perché i T-Pam sono Andrea e Paolo Amati e sono dei compositori, arrangiatori e realizzatori di prodotti discografici che vantano collaborazioni con artisti come Bob Sinclair, Digital Boy e insomma tanti tanti altri. Dall'incontro loro insieme appunto al cantante che abbiamo ascoltato, Michael, che ha dato appunto una mano, ovvero sia Michael Lane. Michael Lane invece è un ragazzotto che viene fuori da uno X Factor, insomma, tanto per dire, tedesco, e che si è avvicinato a un Grammy Awards. Una voce molto profonda, molto interessante, il connubio pack di questi due artisti rende molto bene, rende molto bene internazionale il sound, e in effetti così è quando si esporta la bella musica. A questo punto, regia, che ore sono? Le 15:54 ultimo più o meno. Brano, siamo anche qua, non lo annunciamo neanche. Sì, anche qui abbiamo una sorpresa per voi e per noi. Dimmi che sta succedendo, ti lascio un momento. E quando torno non mi sembri più te, piangi nel tuo appartamento. Mi guardi dicendo, tu questa vita non la passi con me. Mi hai fatto a pezzi ma sai che me ne frega. Sei così bella che ne vale la pena. Graffi sul collo, morsi sopra la schiena. Scoppiamo e dopo litighiamo. Beviamo e poi ricominciamo. Stavolta abbiamo esagerato, tutto rovinato. È un amore disperato. volessi solo una donna. Questa rischio un inferno, ma si muore di freddo. So che sei stata tu con le tue lacrime di coccodrillo. Io ci ho riempito fino all'ultimo shot. E troppo tardi sono fuori controllo. E tiro dritto ad ogni singolo stop. Scoppiamo ma non mi saluti, come perfetti sconosciuti. Ma lo sappiamo cos'è stato, quello che è stato. Un amore disperato. Sto toccando, sto toccando, sto toccando, sto toccando. Sto toccando, sto toccando, sto toccando, sto toccando il fondo. Troppe scuse e scorderà, scorderà l'amore, questo amore. Allora adesso Paoletti disperato. Ci spiega cosa abbiamo in sottofondo. Tancredi e Don Nico, quando le affinità elettive insomma arrivano nel momento giusto. Tancredi insieme con Don Nico lavoravano entrambi sullo stesso brano e hanno detto beh, ma sai che c'è, confrontiamo le nostre versioni e sentiamo un po' che effetto fa. È un po' come Oro di Guegue Pegno, hanno riscritto Amore Disperato mantenendo intatto ovviamente il ritornello, e sono sicuro che anche Amalia amerà non questo pezzo. Non mettiamo in difficoltà la povera Amalia. Però si ricorderà il pezzo. Questa è una delle mie canzoni preferite. Mi dispiace, benissimo. Delle volte la mettiamo in difficoltà con dei brani che lei, essendo una ragazzina, non esatto. può conoscere. Però è tenuta a conoscere. Che anche i ragazzini adesso conosce. Ma in realtà questi brani degli anni 80 così hanno avuto una seconda vita. Un reverbero. Sì, sì. E quindi noi insomma di questa generazione li conosciamo e li conosciamo e li cantiamo tutti. Se non altro perché i Super B poi avevano ricoverizzato negli anni 90, fine 2000, insomma, questo pezzo, e quindi insomma via via si e poi si ballano ancora oggi, sì, oppure si ascoltano dei disco pub, si rifà, no? Col c'è il karaoke anche, dove ho sentito delle cose pessime a dir poco, insomma. Ben arrivata Amalia, io so che tu ci hai preparato delle sorprese, grazie. Vero? Grazie, sì, la sorpresa in realtà l'hanno fatta a me le persone che ho intervistato per la puntata di oggi, perché al Biografilm Festival che si è appena concluso la settimana scorsa è arrivata la moglie di Julian Assange e quindi abbiamo un'intervista a Stella Assange col Paccio per il documentario che è stato presentato sul marito al Biografilm Festival. Perfetto. Quindi oggi questo sarà il focus della puntata di C'era una volta il West. È importantissimo, dunque complimenti a questo scoop, Amalia, veramente Amalia, scoop. È proprio uno scoop che è appunto la nostra punta di diamante qua. Esattamente, cinema, quindi, e giornalismo insieme. Beh, perfetto, insomma, più di così, quindi curiosamente rimarremo appunto ancorati sui 103 e 100 modulazione per ascoltare, insomma. Anzi, facciamo dire direttamente a lei puntata, nome, tutto. Orario. Allora, C'era una volta il West alle 17, dalle 17 alle 18, cinema e colonne sonore, e oggi uniamo anche la parte giornalistica perché insomma abbiamo un'intervista importante e poi naturalmente, visto che si parla di Biografilm Festival, anche tutti i dati insomma di questo festival importantissimo a Bologna. Perfetto, sei stata veramente chiarissima, esaustiva, devo dire che appunto anche questa volta la nostra redazione ha lavorato bene. Molto ti bene. Ringraziamo Amelia. Grazie, ed ci sentiremo più tardi sicuramente. Quindi allora, saluti diritto. Allora saluti. Ringrazio intanto Simone e chi c'è ancora? Io mi sono c'è Riccardo sicuramente che vado a salutare. Marzia, che da Gorizia, che Marzia Gorizia mi fa venire un po' va bene, barbaglia la lingua, va bene. Certo. E poi comunque tutti coloro che ci hanno ascoltati, speriamo di aver fatto trascorrere una bella oretta spensierata in allegria, nonostante penso il caldo. Di sì. Certo. E niente. A seguire Dani Colaucci, se a non seguire sbaglio. Alle 16:30 Dani Colaucci con le corrispondenze. Oggi ho bisogno del bicchiere d'acqua. Del bicchiere d'acqua. E poi appunto Amalia con C'era una volta il West. Perfetto. Appuntamento allora a domenica prossima, stesse frequenze, stesso orario. Grazie dell'ascolto e buon proseguimento sulle trasmissioni di Radio Città Fujiko. Buona domenica e buona settimana. Bye bye dal Bolognese Volante. E da Franco Paoletti. Bye bye. Bye bye. Ciao!